di Radio Onda Rossa. E allora, insomma, abbiamo pensato di fare questo spazio mattutino per avere, insomma, più tempo, più essere un po' più agevoli rispetto a tutta questa vicenda che proprio in queste settimane, insomma, c'ha grandissima eco sulla stampa e grandissima eco su un certo tipo di stampa. E molti avranno notato, insomma, l'accanimento magari come sull'argomento del Messaggero, e, insomma, questo qui non è un caso, non è che il Messaggero tutto un tratto è cominciato, insomma, a trattare la materia rifiuti e quindi di tutti i problemi connessi, perché c'ha una prospettiva di cambiamento rispetto a questa questione, ma perché ormai da tantissimo tempo c'è uno scontro di potere proprio su queste vicende fortissimo. E probabilmente è all'interno di tutto questo scontro di potere che si innesta anche questa inchiesta e il terremoto che ha suscitato e la nuova magari riorganizzazione che si prospetterà a breve proprio sull'argomento, perché adesso come adesso tutte le posizioni su questo argomento, su questa vicenda, sono pressoché vaganti, le posizioni di potere, da quelle imprenditoriali a quelle politico-amministrative. E quindi, insomma, facciamo un punto e cerchiamo pure poi di magari di fare un aggiornamento da invece dai territori, perché da, insomma, l'inchiesta non cambia niente rispetto alla gestione criminale ordinaria delle discariche che già esistono sui territori, discariche che hanno tutte almeno una trentina d'anni e i problemi, insomma, sono rimasti tutti là. Bene, allora, andando con ordine, intanto lo ripetiamo per chi è all'ascolto: in questi ultimissimi giorni, insomma, c'è stata l'ennesima brutta figura, diciamo pure, insomma, della giunta capitolina, che aveva nominato un presidente dell'AMA che poi è risultato indagato in Sicilia per traffico illegale dei rifiuti, quindi l'hanno dovuto rapidamente sostituire, e oggi i giornali annunciano un nuovo presidente. Questo tanto per dire le difficoltà stesse in cui versa proprio l'amministrazione capitolina, ma anche quella regionale, insomma. Allora, andando con ordine, lo stato dell'inchiesta, come, insomma, i filoni, i vari aspetti. Allora, diciamo, questa inchiesta è partita il 9 gennaio con l'arresto di Manlio Cerroni, il proprietario, insomma, il monopolista dei rifiuti qui a Roma e non solo, e con altre 7 ordinanze di custodia cautelare che comprendono dei suoi uomini chiave, nonché 2 uomini della Regione Lazio, quindi Luca Fegatelli e Raniero De Filippis, che erano rimasti comunque dalle amministrazioni precedenti e sono risultati essere in qualche modo delle pedine interne alla stessa amministrazione di Cerroni. Sì, questi 2 dirigenti regionali, insomma, arrestati e sotto inchiesta, però, insomma, erano in carica durante lo svolgimento delle operazioni, insomma, non erano stati avvicendati come succede spesso quando cambia il governo regionale, ma erano stati lasciati lì. E, insomma, tutti sapevano che c'era questa inchiesta in corso e che prima o poi sarebbe successo qualcosa. E quindi, insomma, lasciare questi personaggi ha rappresentato sicuramente una brutta figura per Zingaretti stesso, che si trova oggi a dover giustificare dalle scelta. È anche magari un segno di continuità rispetto alle politiche che erano state portate avanti fino a quel momento. Sì, poi tra l'altro uno degli uomini chiave di Manlio Cerroni è anche Landi, che comunque è un ex presidente della regione negli anni 80, e poi Piero Marrazzo stesso comunque è sotto indagine dal momento che la sua autorizzazione dell'inceneritore di Albano fuori dal suo mandato viene reputata comunque un abuso d'ufficio e di questo dovrà rispondere. Comunque sia, l'inchiesta prevede, diciamo, cioè le accuse sono quelle di traffico di rifiuti, associazione a delinquere, truffa, frode alle pubbliche forniture, truffa ai danni dello Stato, ovviamente, perché comunque sia uno dei 4 filoni dell'inchiesta riguarda i rifiuti tradotti in CDR all'interno della discarica di Albano. La discarica di Albano fa parte di 2 filoni differenti di questa inchiesta, una riguardante proprio l'inceneritore e la sua autorizzazione, appunto, avvenuta in maniera irregolare al di là di una valutazione di impatto ambientale negativa che uscì all'epoca e che Marrazzo in qualche modo forzò anche per far ottenere i CIP 6 a Manlio Cerroni, ossia questi finanziamenti statali che in realtà erano già ritenuti illegali dalla comunità europea e anche proprio a livello nazionale. E poi, sempre per quel che riguarda la discarica di Albano, c'era il fatto che al suo interno la Pontina Ambiente, l'azienda di Cerroni che se ne occupa, produceva CDR dal rifiuto solido urbano in entrata a livelli molto inferiori rispetto a quelli che poi dichiarava e che faceva pagare ai comuni del bacino. E quindi in qualche modo ci sono stati tutta una serie di proventi illegali legati a questa gestione, che oltretutto, oltre a rappresentare appunto una spesa in più per le pubbliche amministrazioni, c'è anche il fatto che quindi un tal quale veniva comunque buttato nel settimo invaso, inquinando fortemente la falda, che insomma questa discarica proprio nel corso di quest'anno ha avuto un aggravamento della situazione della falda. Qual è il settimo invaso? Il settimo invaso è l'ultimo invaso costruito dentro la discarica di Roncigliano. Quello che purtroppo tutti possono notare passando sulla via Ardeatina, perché è stato costruito a 170 metri dalla prima abitazione, il muro di perimetrale della discarica è a meno di 15 metri dalla via Ardeatina ed è insomma l'invaso su cui tanti comitati si sono battuti in questi anni, che ecco anche l'invaso che sta provocando un disastro sanitario in tutto il circondario. È quello più puzzolente, insomma. È quello in attività ed è quello più puzzolente proprio per le caratteristiche che ha assunto la sua progettazione e la sua messa in opera. Tutte caratteristiche che a quanto pare erano ampiamente, insomma, sono caratteristiche criminali e hanno dei risvolti penali. Però comunque sia l'invaso continua a funzionare e continua a funzionare con tutte le problematicità che magari continueremo a raccontare. E, e che anche in questi giorni proprio il coordinamento stesso sta affrontando, perché mi sembra 2 anni fa c'è stato una rilevazione di uno sversamento di percolato in un fosso lì vicino e da lì è partita un'emergenza, ma nonostante ciò nel corso di questi 2 anni l'ARPA ancora non ha comunicato quelli che sono i dati in merito alla qualità appunto delle acque dai pozzi spia della discarica. E tra l'altro diverse richieste da parte del comitato di accedere a queste informazioni sono cadute nel nulla, tra l'altro anche la stessa settimana scorsa durante un consiglio comunale ad Albano non si sono presentati i funzionari dell'ARPA. Sì, allora settimana scorsa c'è stato l'ottavo round della conferenza dei servizi per questa procedura di infrazione causata da sversamento di percolato nei fossi intorno alla discarica. L'ARPA, la Pontina Ambiente non avevano personale a disposizione da mandare in conferenza dei servizi a causa dell'inchiesta e quindi il comune ha pensato bene di rinviare a data da destinarsi la prossima parte di questa conferenza dei servizi, che dovrebbe portare a una caratterizzazione interna della discarica. Poi magari spieghiamo bene di cosa si tratta. Ecco, per finire lo stato dell'inchiesta, insomma, quanti ci sono altri due filoni oltre a questi d'Albano. Uno riguarda la realizzazione di un invaso nella discarica di Monti dell'Ortaccio, ossia quella che si dovrebbe fare in teoria vedremo se si farà, se non si quindi farà. Sui criteri di scelta, la totodiscarica ancora in corso qua a Roma, ovviamente, no? Però comunque sia la Giovi, che è l'azienda di Cerroni che si occupava di questa discarica, ha iniziato un invaso lì, tra l'altro poi gettando i rifiuti prodotti da questo scavo a Malagrotta, e pare che durante questo scavo abbia si è entrata in contatto con la falda creando una sorta di laghetto artificiale per sbaglio, poi cancellato dalle mappe per comunque ottenere l'autorizzazione, quando poi in realtà questo lago c'è stato. No, pare e non c'è stato, c'è ancora il lago, io l'ho anche visto, sono stato accompagnato da alcuni del comitato di Malagrotta lì. Ma qui è come quando arrivano l'UFO sulla terra, proprio, insomma, il lago c'è, non c'è, c'è l'UFO, non c'è, c'è il lago, insomma, il lago c'è, il lago esiste, il lago c'è, esiste, e quando io l'ho visionato addirittura erano un paio di mesi che non pioveva, e invece le dichiarazioni proprio della Giovi era quella che il laghetto si era formato per la pioggia, per le piogge, sì. Era piena estate e insomma è passato più di un anno da quando ci sono andato io, e probabilmente sto laghetto è anche cresciuto di dimensioni e il lago c'è lì e la falda è stata scoperta, diciamo, e quindi portata in superficie con tutto quello che comporta, insomma, perché poi quando si vanno a toccare le falde non sai mai quello che succede sottoterra. Quindi questo è un altro filone di indagine, perché oltre che probabilmente scavi abusivi non autorizzati, qui c'è un danno ambientale preciso, insomma, no? Sì, sì. E il quarto? Il quarto invece riguarda le tariffe di smaltimento dei rifiuti ad Anzio e Nettuno. In qualche modo le amministrazioni locali, l'Andi prima di tutto, quest'uomo chiave di Manlio Cerroni, hanno in qualche favorito le aziende di Cerroni, permettendo tra l'altro di continuare a sversare i rifiuti dal quale nelle sue discariche locali, e invece impedendo alla Rida Ambiente, che è un'azienda concorrente, di entrare nel mercato attraverso una serie di blocchi di autorizzazioni o non mandare avanti delle analisi. Quindi comunque sia un favoritismo nei confronti delle aziende di Cerroni. Quindi insomma questo è il quadro dei quattro filoni, dal quale già si può dire, penso, una cosa, no? Correggetemi voi, qui l'inchiesta non è Cerroni, perché lui insomma è il punto cruciale del snodo di tutte queste attività, però sostanzialmente riguarda l'intera regione, perché i giudici sono arrivati Anzi e Nettuno probabilmente non hanno avuto tempo di indagare, che ne so, su Colleferro o altre cose, probabilmente anche lì avrebbero scoperto chissà quali porcherie o nefandezze, insomma. Quindi diciamo che da un punto di vista di valutazione politica di questa inchiesta è un'inchiesta che coinvolge l'intera regione, quindi sotto accusa non c'è solo Cerroni e la sua cricca, che poi più avanti magari vedremo meglio anche di chi si tratta, quale propaggini c'ha fino all'ambientalismo, no? Eccetera eccetera, ma è proprio il piano dei rifiuti regionale, mi sembra di capire, insomma. Insomma, una rapida valutazione ci fa pensare che gran parte delle discariche presenti sono state autorizzate attraverso un sistema che invece, come denunciavano i comitati, le dovrebbe rendere illegittime. Da Albano a Malagrotta a Guidonia a Colleferro, in un sistema che insomma ha tutelato l'imprenditore, le aziende, rispetto invece ai grossi casini che combinano su quei territori, e l'hanno tutelato a tutti i livelli, dalle autorizzazioni e quindi funzionari regionali che danno l'ok a questo tipo di operazioni, all'agenzia regionale di controllo, l'ARPA, che doveva monitorare e quindi tutelare la salute delle popolazioni. E quindi insomma una macchina che a 360 gradi ha permesso insomma profitti cospicui, e li ha anche ridistribuiti a tutto l'apparato, proprio su tutta la vicenda, e molto probabilmente era per questo che sono riusciti ad andare avanti per così tanto tempo. Era abbastanza complicato scalfire un sistema di questo tipo, dove anche chi doveva fare il controllo evidentemente faceva tutt'altro e copriva, insabbiava invece i misfatti combinati dentro le discariche, e quindi insomma è un elemento insomma che ha permesso per lunghissimo tempo la possibilità di procedere in questo modo. Certo, insomma, io ci aggiungerei le connivenze, e soprattutto le connivenze e coperture politiche, che in questo caso arrivano, insomma. Io ho letto sui giornali il nome di Ermanin, per esempio, no? Esponente di Lega Ambiente, insomma, fondatore di Lega Ambiente qui nel Lazio, come viene presentato, eccetera, eccetera. Quindi funzionario di altissimo livello dell'AMA in passato, insomma, dell'azienda. Ecco, quindi insomma, coperture politiche che arrivano a toccare lo stesso mondo cosiddetto degli ambientalisti. Quindi sì, di anche coloro. Edo Ronchi, che, per esempio, si sta scoprendo un suo coinvolgimento, dal momento che a quanto pare Cerroni ha versato dei soldi alla sua fondazione accordati precedentemente, e Edo Ronchi, insomma, l'ex ministro dell'ambiente che viene considerato uno dei migliori del nostro passato, oggi subcommissario all'ILVA, insomma, altro personaggio interessante. Sì, questo sarà insomma da verificare, insomma l'approfondimento dell'inchiesta probabilmente arriverà a delineare. Per ora quello che hanno detto i giornali a proposito, mentre per Ermanin mi è sembrato aver capito, ci sono anche intercettazioni telefoniche di un certo tipo, sue richieste specifiche di soldi, tanto per non sbagliarsi. Per quanto riguarda Edo Ronchi, qui quello che è stato pubblicato dai giornali è di una sottoscrizione a una rivista che lui pubblicava, da quello che ho capito, insomma, nell'ambito di una fondazione da lui creata. Quindi insomma, tanto per essere obiettivi sul piano delle informazioni oggi. Poi le valutazioni politiche evidentemente sono tutt'altre. Ecco, e come valutazioni politiche, prima di passare magari ad altri aspetti di tutta questa situazione, a me sembra di capire, no? Faccio a voi le domande, insomma, che qui ci sono due fronti proprio che Purtroppo, bisogna dirlo ancora una volta, solo un'inchiesta della magistratura porta a sposarsi, a congiungersi, insomma, no? A farli incontrare, cioè c'è un fronte dell'opposizione costituito da voi, da tutti gli altri comitati, insomma, che si sono da parecchi anni battuti contro questa politica di discariche, di inceneritori, eccetera eccetera. C'è il muro della classe politica, dei comuni, delle amministrazioni locali, che si serve di coperture, si serve delle strutture come l'ARPA, che dovrebbero sorvegliare e così via. E c'è poi una figura, in questo caso Cerroni, quella insomma su cui si scaricano tutti gli anatemi, che però è stato non solo coccolato e protetto da tutte le amministrazioni di destra e di sinistra che si sono succedute, ma che io oggi prendendo spunto da una sua dichiarazione che sui giornali ha fatto scalpore, me devono ringraziare, me devono fare un movimento, perché io gli ho salvato le giunte. Ma in fin dei conti, a essere proprio brutalmente, c'è pure del vero in questa formazione, perché questa gente, questi politici proprio non hanno mai avuto in testa nessun piano reale, insomma, anche con magari strumenti, con argomentazioni che a noi non piacciono, ma un piano organico sulla gestione dei rifiuti non ce l'hanno mai avuto, non sapevano che facce con questi rifiuti e non continuano a non averlo Ecco, questa mi sembra un po', vorrei da voi un parere, no? C'è questa, proprio dovrebbe essere chiaro alla popolazione di questa valutazione politica della questa classe dirigente che si è avvicinata, assolutamente negativa, insomma. Sì, assolutamente negativa e assolutamente insomma compromessa con tutta la situazione. Io aggiungerei anche che le amministrazioni locali dove risiede una discarica hanno grossissimi vantaggi dal punto di vista economico nel tenere una discarica sul proprio territorio, perché sono previste tutta una serie di compensazioni per la presenza della discarica sul proprio territorio, che nel corso degli anni, nel corso dei 30 anni, perché insomma parliamo ormai di tutte le discariche che stanno sul territorio da 30 anni, sono diventate parte integrante del bilancio dei comuni. Cioè il comune paga i servizi, quello e quell'altro, e una fetta importante sono proprio i soldi delle compensazioni che ricevono perché hanno una discarica sul proprio territorio. E quindi va da sé che le compensazioni da chi le ricevono? Dallo Stato? Le compensazioni no, le ricevono da una quota che viene sottratta che pagano tutti quelli che conferiscono dentro la discarica, perché insomma dentro una discarica non è che conferisce un solo soggetto, un solo comune, ma sono di solito discariche intercomunali, sì, fatte di 10, 20, 30, 50 comuni, e questi comuni hanno un aggravio rispetto al fatto che devono compensare la problematicità per il comune che invece ce l'ha sul proprio territorio. Il comune ospitante alla discarica. Esattamente. E a forza di andare avanti con questo procedimento, il comune ospitante ci fonda il proprio bilancio comunale su questo tipo di compensazioni, che non so pochi soldi, so parecchi soldini. Quindi, detto in soldoni, la discarica di Malagrotta, che è nel comune di Roma, ci sversavano anche altri comuni? Ci sversano Ciampino e Fiumicino, probabilmente Malagrotta è il caso meno emblematico. Fanne uno più emblematico. Guidonia. Discarica nel comune di Guidonia, dentro alla discarica ci scaricano 50 comuni. Quei 50 comuni nella tariffa hanno una quota che è la compensazione che va nelle casse del comune di Guidonia. Perfetto, allora succede che il comune di Guidonia, non lo so, ma magari faccio un'ipotesi, sta inattivo o in pari come bilancio, perché attraverso questa compensazione riesce comunque a stare meglio degli altri comuni. Esattamente. Sicuro, e questa è la stessa cosa succede a Albano con i suoi 11 comuni di bacino, insomma. In più invece i comuni che scaricano dentro la discarica, gli altri comuni che non hanno la discarica sul proprio territorio, nel corso degli anni hanno accumulato un debito rispetto ai gestori della discarica, che è il debito attraverso il quale Maglio Cerroni, soprattutto nei piccoli comuni, tiene strozzati gli amministratori. vuoi mai arriva un amministratore che si vuole cercare di sganciare in qualche modo dal sistema di raccolta e smaltimento. Non può farlo perché c'ha questa spada di Damocle dei debiti accumulati nel corso degli anni proprio con i gestori della discarica, e il gestore della discarica, se richiede il mal tolto tutto insieme, lo manda in fallimento, lo manda quando c'è da chiudere il bilancio. Quindi i comuni sono soggetti a due cose: uno, una compensazione al comune ospitante, esatto, e l'altra i soldi che pagano per il conferimento a chi gestisce uno strumento la di ricatto discarica. Poi, quindi, insomma, mi sembra un modello perfetto di corruzione, perché erano corrotti sia in questo modo, insomma, il metodo consentiva la corruzione sia degli amministratori, quindi amministrazioni comunali ospitanti soprattutto, e sia del gestore che diventava il vero ricattatore di tutto questo sistema, fermo restando che i soldi non erano dei comuni, erano dei cittadini, perché poi pagati attraverso, no? Tutto questo poi a ricasco delle tasche di chi pagava la Tares, la TIA, insomma infiniti nomi che la tassa tariffa dei rifiuti ha preso nel corso degli anni. E sì, insomma, poi ricade tutto nelle nostre tasche. E tutto questo credo che nel tempo abbia avuto un'escalation, cioè se sono nate 30 anni fa questo meccanismo delle compensazioni, immagino, ditemelo voi, che nel tempo la compensazione magari percentualmente è anche aumentata. Allora, probabilmente sì, è aumentata anche in base alla quantità dei rifiuti che nel corso del tempo è aumentata la produzione, e quindi insomma probabilmente anche la compensazione è aumentata di conseguenza. Per gli anni prossimi le previsioni parlano di un leggerissimo calo della produzione di rifiuti, anche a fronte magari di un calo più grosso dei consumi. Però insomma di un leggerissimo calo, così almeno ci racconta la Regione Lazio, e quindi diciamo che a livello generale il trend dovrebbe essere più o meno quello stesso anche nei prossimi anni, però insomma alla fine degli anni 70 insomma è stato inevitabile che ci si dotasse di discariche più grosse, perché proprio la produzione dei rifiuti diventava insomma notevolmente maggiore, insomma l'introduzione della plastica su qualunque livello, insomma qualunque cosa che usiamo purtroppo è impacchettata, incelofanata, implasticata in qualche modo, e quindi aumentava il volume dei rifiuti. È aumentato il volume dei rifiuti. Parallelamente all'aumento dei consumi aumentava esponenzialmente il volume dei rifiuti, insomma. Bene, e mi sembra che intanto qui allora una prima informazione, un primo sguardo sintetico allo stato dell'inchiesta e anche alle diciamo implicazioni che sono venute fuori l'abbiamo fatto. Io direi di sospendere un attimo con un po' di musica e poi riprendiamo. Trascina e un boe pesticidi scende a valle, poi s'abbraccia col tanaro che porta l'ammoniaca verso nuovi lidi. Un po' più a valle il bo si incontra col vicino e corre ancora giù verso il panaro, così si trova anche l'arsenico, il sesia e l'olio, aggiungono il mercurio. Che sia nel Po che Kafka ha fatto il bagno quando si è trasformato uomo ragno, e pare ci sia anche un testimone che ha visto Achille metterci il tallone. E son venuti degli esperti americani che sanno tutto e se ne lavano le mani, ma per errore le han lavate dentro il fiume, sulle dita già gli spuntano le squame. Bene, torniamo in diretta su questo approfondimento mattutino del sabato. L'abbiamo scelto apposta perché, insomma, la tematica dei rifiuti, dei problemi che sono sorti in modo eclatante a seguito dell'inchiesta, ma insomma ultranoti, arcinoti per quanto riguarda la città di Roma e i dintorni, diciamo pure il Lazio, insomma, sottovalutata decisamente dagli organi di informazione, ma soprattutto dalle forze politiche. Insomma, il bubone è scoppiato con l'arresto di Cerroni, eccetera eccetera. Abbiamo cominciato, fatto una breve descrizione dello stato dell'inchiesta, e poi siamo entrati anche inizialmente nel meccanismo, diciamo così, delle compensazioni, del perché queste discariche hanno avuto una vita così lunga e nessuno voleva ammazzarle. Insomma, c'era una catena di Sant'Antonio che da un lato favoriva l'imprenditore Cerroni, in questo caso i gestori delle discariche, dall'altro i comuni ospitanti le discariche, e dall'altro, insomma, come soggetti ricattati, i comuni che conferivano l'immondizia in queste discariche. Su questo però ci sono altri aspetti, insomma, da spiegare, da illustrare, no? Sì, allora un po' di tosse. Allora, continuando a descrivere questo meccanismo, i comuni nel corso degli anni hanno accumulato debiti rispetto alla gestione della discarica, debiti che le aziende titolate a incassare, debiti verso il gestore della discarica, che insomma nel corso degli anni ha preso accordi per arrivare a fare delle dilazioni di questi debiti, e dilazioni più o meno svantaggiose per il comune che ne faceva richiesta. Così che si è assicurato, insomma, una quiescenza da parte dei comuni rispetto a quello che succedeva nel territorio. Adesso, proprio poi magari nel caso di Albano, dove c'è stata un'inchiesta per truffa, e i soggetti truffati sono i comuni che conferiscono dentro la discarica, non si capisce perché non è ancora partita e non c'è nell'aria nessuna intenzione di far partire un sistema per una richiesta di danni rispetto alla truffa che hanno subito. Sappiamo benissimo che i comuni hanno problemi di bilancio più o meno gravi e un piccolo gruzzoletto da poter recuperare è a disposizione, è lì, basta provare a cercare di recuperarlo. E questa iniziativa che dal punto di vista del meccanismo che abbiamo descritto fino adesso sarebbe controtendenza, non è proprio nell'aria. E quindi già ci fa pensare che anche se l'inchiesta, insomma, è scoppiata, il caso sta su tutti i giornali, comunque il sistema di ricatto, di controllo e di connivenza è ancora tuttora in piedi, presente, forte sul territorio, e quindi, insomma, è un elemento molto grave. Pensiamo, insomma, adesso nei prossimi mesi l'inchiesta va avanti, cosa faranno i 10 comuni della discarica di Albano Laziale? Si costituiranno parte civile come enti truffati o continueranno a far finta di niente? Eh sì, perché, insomma, qui da quello che avete descritto, insomma, viene fuori chiaramente che la parte di vittime, diciamo così, dei comuni soggetti a pagare e la compensazione al comune ospitante la discarica e le tariffe al gestore della discarica, evidentemente devono, oltre la facilitazione, tra virgolette facilitazione, che gli accordava Cerroni dilazionando i pagamenti, che però era un modo per tenerli vincolati, sicuramente può darsi, ovvero è molto probabile, a pensare male non si fa peccato, che parecchi di questi amministratori poi magari sotto banco abbiano ricevuto proprio dei corrispettivi economici, dei favori in qualche modo, proprio per evitare che ci fossero pronunciamenti di carattere politico da parte delle amministrazioni comunali nel dire, nel richiedere indietro soldi, nel fare. E certamente quello che dici tu, quando l'inchiesta arriverà al punto di, adesso in fase istruttoria, di un rinvio a giudizio, lì si vedrà, insomma, si potrà verificare la buona fede di questi comuni, perché se certo che se nessuno si costituisce parte civile la cosa puzza, però io credo che associazioni come la vostra Noince d'Albano o altre che ci stanno dovrebbero fare questo tentativo, perché poi alla fine qui sono i diritti dei cittadini, che sì, in qualche modo il comune li può rappresentare, ma non li può sostituire del tutto. Nel momento in cui decide di non costituirsi parte civile, credo che il passo da fare, o comunque da provare a fare, sia anche quello di costituirsi come associazioni dei cittadini parte civile in un'inchiesta del genere, di modo che vengano fuori pure queste contraddizioni, questi aspetti nascosti, insomma. Sì, insomma, ci si penserà, si valuterà anche questo tipo di intervento o pressioni da fare sulle amministrazioni, proprio per cercare di spingerle a un'iniziativa di questo genere, che, insomma, è più che legittima e probabilmente gli è anche utile, visto lo stato, appunto, dei bilanci, che non è per niente roseo. Però, insomma, constatando quello che succede magari ad Albano proprio in queste settimane, con l'amministrazione corrente, mi pare che amministrazione targata PD, mi pare molto difficile, perché poi paradossalmente proprio nelle settimane in cui è scoppiato questo bubone, l'amministrazione d'Albano è diventata nervosissima, non sappiamo per quale motivo, insomma, possiamo continuare a pensare male perché hanno la coscienza sporca, hanno paura magari di finire in mezzo a questa inchiesta, però fatto sta che per le iniziative che abbiamo messo in calendario nelle settimane passate, mai prima di prima di oggi, quindi, insomma, dopo 6 anni, il comune di Albano si è ricordato di farci una multa per l'affissione dei manifesti. Dopo 6 anni di affissioni, La settimana scorsa il Comune di Albano si è ricordato di fare una multa per l'affissione dei manifesti. Manifesti no inch. Manifesti no inch. Stessa cosa, e ancora non sappiamo bene a quanto ammonta la multa, però insomma, stessa cosa si può per dire per prendere l'aura consigliare del Comune. Insomma, il Comune, la casa dei cittadini, della popolazione e quant'altro, grossi problemi per prendere la sala, ostruzionismo, e poi la richiesta di pagamento di 100 euro per svolgere un'iniziativa dentro l'aula consigliare. Allora, nel contesto in cui ci troviamo adesso, cioè non è che stiamo parlando di un argomento assolutamente avulso dalle tematiche del giorno, stiamo parlando di una cosa che è insomma sulle prime pagine di tutti i giornali, esattamente, in cui il Comune di Albano è coinvolto a pieno titolo. Mi pare evidente che insomma fare ostruzionismo per far svolgere un'iniziativa del genere dà il segno insomma di cosa si è fatto fino adesso e di quali responsabilità si hanno in tutta questa situazione, perché insomma non voler parlare di questo aspetto vuol dire proprio cercare di cucire la bocca tra virgolette a chi invece magari porta avanti questa battaglia. Sono poi tra l'altro tutti i tentativi molto goffi da parte dell'amministrazione d'Albano, perché insomma una multa dopo 6 anni oppure chiedere 100 euro per usare la sala, insomma un tentativo goffo, però ti danno proprio il segno del nervosismo che abbiamo poi riscontrato nella conferenza dei servizi della dove? Questa era regionale o locale? È una conferenza dei servizi della discarica locale, con la presenza dell'ARPA, con la presenza della Pontina Ambiente. L'ARPA non ha potuto mandare i propri dirigenti, però ha inviato un documento. Un documento che conferma grossi problemi nei pozzi di captazione delle acque, grossi problemi di inquinamento. Rispetto a tutta una serie di metalli pesanti e altre schifezze. Beh, per cercare di avere questo documento in tempi non biblici, con accessi agli atti, insomma abbiamo dovuto fare le corse per tutto il comune, rincorrere di assessori con sti fogli che insomma non volevano assolutamente che entrassero in possesso del comitato. Perché la paura è sempre quella che se entra in possesso documentazione di qualunque tipo, entra in possesso al comitato, poi diventa documentazione pubblica, perché il nostro interesse è diffonderla, certo, tra tutti. Certo. E invece probabilmente l'interesse delle amministrazioni è tenerla insabbiata, continuare a tenerla insabbiata. E insomma questo atteggiamento è l'atteggiamento che ha mandato avanti tutta questa situazione per 30 anni. E non si è rotto, no, continua tranquillamente, probabilmente continua tranquillamente anche negli altri siti di discarica. E insomma è un problema che insomma abbiamo affrontato, ci stiamo combattendo da tempo, e probabilmente l'unica cosa che ci dà una mano è il fatto che grazie all'inchiesta c'è un po' più di spinta, di recettività rispetto a questo tipo di problematiche, che dà un po' più di forza, coraggio, sostegno a quello che viene detto, e quindi insomma permette un po' più di un lavoro un po' più agevole, anche se poi insomma i problemi sono quelli che abbiamo raccontato. Io adesso magari se siete d'accordo viceversa passerei ad altri aspetti, no? Intanto dobbiamo arrivare un po' a com'è la situazione attuale, cioè nonostante l'inchiesta o anche a seguito dell'inchiesta, che cambiamenti ci sono o si possono aspettare nella politica generale della Regione Lazio per quanto riguarda i rifiuti, ivi compreso poi l'aspetto incenerimento, che a me sembra insomma qui anche dal punto di vista padronale, anche dal punto di vista della gestione dei comuni stessi, della regione come piano organico di trattamento dei rifiuti, mi sembra fallimentare. Qui non c'è sta un inceneritore che si può dire che abbia funzionato. Noi ce ne rallegriamo di questo, no? Perché insomma il nostro, il vostro atteggiamento è sempre stato quello di contrastarli, ma qualcuno si dovrebbe anche interrogare: avete speso un sacco di soldi per fabbricarli, non hanno mai funzionato, ma insomma non si chiede neanche conto di questo, mi sembra. Cioè, l'aspetto è truffaldino su tutta la linea. E, il caso di Colleferro, l'impianto che insomma ha funzionato, continua a funzionare, che però insomma è entrato in uno scandalo grosso proprio per la sua gestione. Di San Vittore, che è l'altro impianto che funziona, si sa poco, poco e niente. L'inceneritore di Malagrotta, un buco nero che ha risucchiato un sacco di soldini pubblici per la sua parziale costruzione. Sicuramente l'aspetto sono tutti intrecciati. L'inceneritore di Colleferro funzionava male e aveva quel tipo di caratteristiche di smaltimento, cioè ci bruciavano di tutto, compresi i copertoni, venne fuori, sì, no? Cose di sto tipo. Esattamente, perché in tutta la regione non si faceva quello che serviva per farli funzionare bene, che sarebbe la separazione dei materiali, o anche detta raccolta differenziata, perché purtroppo dietro la parola raccolta differenziata per tantissimo tempo, secondo noi, c'è stata un'altra truffa. Cioè la raccolta differenziata, quindi la separazione dei materiali, doveva servire a produrre CDR, combustibile da rifiuto, carta, cartone e plastica, che poi magari volendo sono anche insomma i materiali riciclabili e riutilizzabili, venivano stoccati in ecoballe che devono finire dentro agli inceneritori. Non so, il nord Italia, l'Emilia Romagna, dove i livelli di raccolta differenziata sono molto alti, hanno la maggior presenza di inceneritori, ben 10, perché la raccolta differenziata era finalizzata a produrre CDR che finiva dentro gli impianti di incenerimento. L'umido non si sa bene cosa ci facessero, però insomma questa era la situazione. Nel Lazio l'incapacità, non so, il sistema di corruzione, il fatto che molto più probabilmente il sistema di scarica è molto più comodo e molto più redditizio, ha fatto sì che il CDR non fosse mai stato prodotto in quantità adeguata. E quindi insomma gli inceneritori presenti bruciavano di tutto, e quelli da costruire o in fase di costruzione, tipo quelle di Malagrotta, insomma si sono presi un bel po' di tempo, perché non è che c'era tutta st'urgenza di portarlo avanti, anche perché il CDR scarseggiava. Sì, poi in generale nella regione Lazio c'è una scarsità di impianti di trattamento meccanico biologico, che sono tra l'altro inadeguati, in realtà non fanno un trattamento reale del rifiuto. Anche in quel caso il prodotto finale è molto scadente, ed è tra l'altro il problema di cui parlavamo prima per quel che riguardava la discarica di Albano. Anche le percentuali sono molto basse, quindi probabilmente, oltre al fatto che i brevetti di inceneritori come quello di Malagrotta, che è tra l'altro il gemello di quello che si doveva fare ad Albano, sono brevetti di impianti che in altre nazioni comunque non hanno funzionato, si sono inceppati, hanno avuto vari incidenti, oltretutto venivano alimentati male, appunto. Esattamente. E quindi mi sembra, tra l'altro, anche con un apporto di combustibili tradizionali per farli funzionare, perché altrimenti di per sé con la sola spazzatura, sia pure trattata, non riuscivi a far funzionare l'impianto al punto da prendere il famoso CIP 6. Eh sì, ma poi sul progetto d'Albano, che è quello che conosciamo un po' meglio, da progetto c'era scritto che insomma per arrivare alle temperature serviva il carbon coke. Un po' ce lo dovevi mettere, perché sennò non ce la facevi a raggiungere le temperature che ti servivano. E quindi confermare tra l'altro che questa termovalorizzazione è tutta un mito in fondo, perché esatto, il rifiuto in realtà ha bisogno di altri combustibili per bruciare. Sì, è un mito legato all'incentivazione alla produzione di energia elettrica. Insomma, un kilowatt di energia elettrica prodotta da quegli impianti aveva diritto, per chi è riuscito a insomma conquistarsi queste quote, a una maggiorazione rispetto magari all'energia elettrica prodotta da una centrale idroelettrica o dalla centrale a carbone di Civitavecchia. Quindi un business molto redditizio attraverso un'incentivazione pubblica. Pagato anche questo con le bollette da tutti i consumatori, perché la voce CIP 6 era proprio una delle voci che incidono sulla bolletta. Io volevo dire una cosa rispetto a quello che si diceva prima sugli inceneritori del nord Italia. Allora, appunto, innanzitutto sottolineando il fatto che l'inceneritore, proprio per il fatto che utilizza CDR, è in diretta concorrenza con la raccolta differenziata e quindi limita un po' lo sviluppo dei vari consorzi poi sul territorio della filiera. C'è da dire che al nord, dove queste filiere in fondo funzionano molto meglio che qui e dove quindi in teoria un po' c'è concorrenza all'inceneritore, per esempio quello di Parma in qualche modo si parlava di poterlo spegnere affamandolo così, in realtà adesso per il problema che si sta creando qui, quindi l'emergenza di Roma, arriverà a quegli inceneritori probabilmente i nostri rifiuti, anche rifiuti cattivi appunto, non ben selezionati, e quindi il rischio di queste regioni che hanno portato avanti questo sviluppo degli inceneritori è proprio invece quello di diventare un po' il punto di arrivo dei rifiuti del sud in questo periodo. Sì, questa è una dinamica, insomma, del trasporto dei rifiuti, insomma, fuori regione, ormai è diventata una prassi abbastanza consolidata. E qui probabilmente siamo già alle strategie in corso, cioè voglio dire a quella cosa che accennavi prima, sì, insomma. Allora, io no, volevo chiudere una battuta proprio sulla raccolta differenziata sull'Emilia Romagna e sulle associazioni ambientaliste tipo Lega Ambiente, perché nei posti dove la raccolta differenziata ha funzionato però poi è servita per alimentare gli inceneritori, proprio le associazioni ambientaliste hanno fatto le grandi campagne per sostenere la raccolta differenziata e spronare le popolazioni, i cittadini a darsi da fare, perché insomma dovevano sostenere, erano parte integrante di un business nocivo e loro facevano il loro piccolo lavoro, quello di spronare la popolazione a fare una buona raccolta differenziata, che poi però insomma avrebbe fatto la fine che sta facendo, cioè andava bruciata. E quindi da una parte grande soddisfazione per i risultati raggiunti e poi dietro questa facciata c'è la tragedia di tutti questi impianti, e quindi insomma Lega Ambiente e tutte le sue propaggini non è che sono inserite in questo meccanismo in maniera così di struscio, ma ne fanno parte in maniera molto pesante, perché le campagne per la raccolta differenziata, la sensibilizzazione sono da sempre i loro cavalli di battaglia, e assolutamente altro cavallo di battaglia è non cercare di spiegare cosa c'è dietro e quello che poteva succedere, ma limitarsi a questo aspetto che è uno degli aspetti di tutta la questione. Il famoso ciclo virtuoso pubblicizzato, per cui pubblicizzato e alcune volte anche pagato dalle nostre tasche con progetti e progettini che venivano finanziati da enti pubblici, amministrazioni comunali, regionali, provinciali, insomma di tutto e di più. Ecco, viceversa, allo stato attuale, diciamo, della politica nel Lazio dei rifiuti, ecco. Allora, ne abbiamo parlato un po' anche nelle settimane passate e continuiamo. Prendiamo spunto da un documento che è insomma una cosa ufficiale, che è uscita lo scorso 13 dicembre alla Regione Lazio, patrocinato con la presenza, non so come vogliamo dirlo, del Zingaretti e l'assessore Civita. La Confservizi ha presentato questo rapporto di ricerca, sintesi, linee guida per il prossimo piano dei rifiuti. La Confservizi riunisce le aziende di raccolta e smaltimento dei rifiuti e a quanto pare il mondo della politica regionale dovrebbe recepire queste direttive in maniera unilaterale. Insomma, le aziende scrivono il piano dei regionali e Zingaretti e Civita lo copiano e lo trasformano in atti concreti. E quindi già insomma questo è un elemento abbastanza significativo per noi, perché è il chiaro segnale che insomma sull'argomento sono l'azienda a decidere cosa si fa a prescindere dai disastri che combinano, e quindi insomma in buona sostanza qui non c'è mai stata e tuttora non c'è, nonostante i disastri che sono venuti fuori, una strategia autoconcepita autonomamente dalle amministrazioni locali, siano esse comuni che regioni, insomma, almeno per quanto riguarda la Regione Lazio, diciamo, poi il resto non lo so, ma sicuramente per la Regione Lazio lo possiamo dire. Loro si basano su quello che gli suggeriscono le imprese e quindi semmai fanno qualche aggiustamento, non lo so, qualcosa, ma la sostanza del il corpo della strategia è, viene dalla fonte, sono le imprese stesse, insomma. Esattamente, sono le imprese stesse, insomma, le imprese che insomma combinano quello che combinano, lo stiamo raccontando. E allora il piano, lo cerchiamo di riassumere. Sì. Allora, 2 milioni di nuovi metri cubi di discarica per le esigenze immediate, diciamo, complessive, immediate. A livello regionale, questo. A livello regionale, poi non si capisce se qual è la quota della città di Roma, il comprensorio, certo, più grande, quali sono le quote per le altre discariche, perché poi un'altra nota di colore, le discariche dei bacini più importanti, tipo Albano, tipo Guidonia, tipo Colleferro, sono tutte in via di esaurimento, cioè gli invasi, gli ultimi invasi scavati stanno per finire. E anche lì, quindi non sappiamo se questi 2 milioni di metri cubi contemplano anche i futuri ampliamenti delle discariche già esistenti. Quindi non si sa se sono nuove discariche e o ampliamenti delle vecchie. Esattamente. E quindi questo è il primo dato. Il secondo dato, quello di mandare a regime gli impianti già esistenti o parzialmente costruiti. Che quindi significa mandarli a regime? Che significa adeguare Colleferro, adeguare San Vittore, completare Malagrotta. E quindi gli investimenti da indirizzarli in questo tipo di impianti. Ecco, hai citato Malagrotta, ma Malagrotta non è definitivamente chiusa, risorge ancora una volta. La discarica, sì, una delle discariche presenti nel quel comprensorio gigantesco è chiusa, quella è chiusa dei rifiuti solidi. Però c'è nell'area, nel comprensorio, ci sono altre possibilità di ancora di immagazzinare rifiuti. Questo. No, no, mi riferisco all'inceneritore. Ah, l'inceneritore. L'inceneritore Malagrotta, 3 linee, una sola costruita, qui, ecco, mai entrata in funzione. Il piano di le aziende dicono: mandiamo in funzione l'inceneritore di Malagrotta. Perché questo? Su questo c'è insomma una notazione solo economica. Perché l'inceneritore di Malagrotta ci ha avuto la fortuna, al contrario di quello d'Albano, che fortunatamente è sparito da questo documento, e questa è l'unica nota positiva che, di cui abbiamo parlato, che le aziende dicono che l'impianto Albano non c'è, non dicono perché, però non lo sappiamo, perché l'impianto di Malagrotta, per il suo iter, ha diritto ai certificati verdi, ai CIP 6, quindi l'energia elettrica prodotta verrebbe pagata bene, quindi le banche garantiscono i prestiti, quindi mettiamo a regime questo impianto che è una fantastica macchina per fare profitti e inquinare insomma tutto il circondario, e quindi per questo puntano su quell'impianto, perché è l'impianto che ha sul momento è quello che ti garantisce i profitti da assicurati da tutto il sistema che hanno messo in piedi di incentivazione e quant'altro, che è l'unico motivo per cui li costruiscono. L'impianto d'Albano è stato esemplare il fatto che, caduti fortunatamente tutte le sovvenzioni pubbliche sull'argomento, sulla costruzione e il funzionamento, l'imprenditore che doveva gestirlo non ci metteva una lira sua e non ce l'ha messa. Perché sono impianti, dal punto di vista economico, di manutenzione e di gestione ordinaria, completamente a perdere. Ti faccio una domanda. Siccome siamo partiti con lo stato delle inchieste, no? E insomma, dallo stato delle inchieste è venuto fuori che anche l'incentivazione del CIP 6 ottenuta, insomma, è stata ottenuta in modo fraudolento. Allora, come fanno, se così è, a rilanciare di nuovo l'inceneritore di Malagrotta, se quell'aspetto, allora, è oggetto di indagine? Allora, magari rispondiamo al telefono. E, come facciamo? Beh, comunque in generale i CIP 6 continuano a funzionare per gli impianti che l'hanno ottenuto in passato, quindi non sono più autorizzati per nuovi impianti, ma quelli precedenti continuano a riceverli. Ecco, cioè, allora, c'è una telefonata che insomma chiede di interloquire con quanto diciamo. Un attimo che ti mettiamo in onda. Ecco, sei in onda, eh? Sì, sì, sì, argomento rognosissimo questo qui. E quindi c'è sempre il rischio di cose inesatte. Allora, l'inceneritore di Malagrotta per la linea, la sola linea costruita, come diceva giustamente Paolo, è entrato in funzione, non è che non è mai entrato in funzione, è stato in esercizio dal 2009 al 2011, dopodiché per una serie di ragioni che a noi che al cittadino comune tuttora incognite, possiamo solo fare diverse ipotesi, si è bloccata la produzione al settembre 2011 e ancora deve essere ripresa. Il piano prospettato, approssimato, eccetera eccetera, prevede invece il passaggio a pieno regime, cioè all'utilizzo di 180.000 tonnellate annue di CDR. Quindi questa sarebbe l'ipotesi di lavoro. Fra l'altro, fra le tante ipotesi per cui si sarebbe fermato questo impianto, c'è pure il fatto che proprio sulla questione dei CIP 6 non si è capito bene, o quantomeno non l'ho capito io e non so se l'ha capito qualcun altro, proprio il flusso di denaro da CIP 6 non è arrivato in maniera adeguata al produttore, tra le tante cose, perché poi sicuramente in piedi c'è un processo per un serbatoio di idrogeno sovradimensionato rispetto all'impianto, quindi questo è un processo in piedi, con sequestro da parte della magistratura. Poi sul funzionamento, eccetera, eccetera, perché per le cose che si dicevano prima, un tipo di tecnologia che ha fatto fallimento non solo all'estero ma anche in Italia, perché c'è stato un tentativo di installazione a Fondo Doce, in provincia di Como, mi pare, e appunto che è andato e fatto un clamoroso fallimento alla fine degli anni del secolo scorso, insomma. E questa è una cosa. E per il resto, proprio rispetto alla domanda che faceva Giorgio, cioè ma voi appunto vi costituirete parte civile? Noi ci costituiremo sicuramente parte civile appena ci stanno i tempi tecnici. Ovviamente, certo. Ma anche perché l'associazione di cui c'hai il valido presidente qui lì in studio, quindi l'Associazione Culturale contro le Nocività, che è parte del coordinamento, è l'unica citata dentro il malloppone dei giudici, dei pubblici ministeri. Si dice chiaramente, qui c'è questo rapporto, relazione tecnica presentato dall'associazione in questione, ci ha aperto un nuovo orizzonte, eccetera eccetera, per cui siamo, come si dice, riconosciuti, ci hanno visto, eccetera, citati dentro. E questo non si sa se è un bene o un male. No, è un male, tanto che ci frega. Noi no, era una battuta. Certo, no. Ieri mi ha mandato in prescrizione il processo, tanto è vaffanculo. Comunque, al di là di questo, abbiamo in piedi però un'azione specifica già da adesso, che si chiama Azione Popolare, che è un'azione per cui i cittadini si sostituiscono all'ente locale, certo, e poi praticamente danno la possibilità di aprire a tutta una serie di cause civili per risarcimento dei danni di tutti i cittadini che vorranno partecipare, e in questo caso la costituzione è un'operazione, cioè la costituzione personale dei cittadini è una costituzione senza oneri, e questo lo stiamo facendo, arriveremo a breve, spero, a aprire concretamente questa cosa. Bene, questo mi sembra una buona prospettiva, insomma. Insomma, cioè, un atto dovuto, perché appunto non è che uno dice chiacchiera di patologie così a voto. Ci stanno, tenendo presente che pure sulle conseguenze sanitarie, facciamo questa piccola distinzione, cioè per quanto riguarda l'inquinamento delle falde è chiaro che se uno fa riferimento non tanto all'invaso immediatamente costruito, ultimamente costruito, ma agli effetti degli invasi precedenti, per ragioni credo facilmente comprensibili, insomma, cioè chiaramente per arrivare a bruciare la falda ci vuole un po' di tempo, a meno che insomma fai delle cose clamorose tipo appunto quello che hanno fatto a Monti dell'Ortaccio o altrove, e quindi cioè questi soldi tu raccogli in falda gli effetti della appunto trentennale vita, certo. eccetera eccetera, quello che c'hai più immediatamente è che risenti in maniera più evidente e immediata è la, gli effetti degli aeriformi, cioè insomma volgarmente i miasmi, il puzzo, eccetera eccetera. Sì. E questo è sicuramente dato dall'ultimo invaso. Mo, detto questo e fatte una serie di altre precisazioni, le procedure di infrazione sono state attivate dalla provincia di Roma per una presenza del benzene in un pozzo del appunto nel rilevato nel 2012, quindi non da percolato. Sul percolato hanno fatto un milione di altri ragionamenti che però faremo un'altra volta e lasciamo perdere. E così come sulla conferenza dei servizi, non è che l'ARPA non ha fornito i dati, l'ARPA pure l'altro giorno ce l'ha dati i dati, cioè sta dopo, però ce l'ha dati dopo due anni. Quindi qui c'è l'ingegnere Molli, fra l'altro è una figurina che noi, con cui noi abbiamo avuto a che fare, è estremamente simpatico, insomma, cioè uno pio pio, insomma, e poi si inverta, cioè se costruisce, se compra casa di 600.000 euro improvvisamente, così in alcuni momenti. Vabbè, lasciamo perdere, però appunto abbiamo dei dati estremamente precisi che deve, e l'ARPA alla fine lo fa, descrive un processo di inquinamento inarrestabile, ci stanno degli istogrammi, ci stanno delle rappresentazioni grafiche che danno, che sono chiarissime, che danno cioè l'impennata del grafico su tutta una serie, su tutta una serie di questioni. Solo fa quello che cazzo gli pare, cioè hanno fatto mettere nero su bianco che ultimamente l'ARPA poteva fare i prelievi una volta ogni due anni, in palese violazione delle leggi che bene o male, cioè che si sono fatti loro. Ci sta una legge sulla gestione delle discariche del 2003 che prevede massimo un prelievo, massimo un controllo l'anno, questi l'hanno fatto dopo due anni. E i pezzi di carta che ci consegnano, ci stanno i dati dell'EcoControl, che è una ditta che è direttamente del padrone, dei Cerroni. Capito? Insomma, ci stanno queste cosine qua che vedremo, eccetera. Sulla questione della truffa. Appunto va considerato che questa cosa riguarderà, perché nell'inchiesta si ferma al 2012, ma poi dovrà affrontare il 2013, e su questo terreno si investe direttamente la città di Roma, perché è chiaro che, perché è assodato che il trasporto dei rifiuti da Roma a, per esempio, a Roccigliano, ma anche a altre discariche, per il trattamento e per il ritorno non è stato fatto. Cioè chiaramente, e quindi probabilmente il Comune di Roma ha pagato il gestore per un trattamento che non è stato svolto, e quindi all'attenzione dei compagni di Roma, eccetera, che questo implica un effetto immediato sui bilanci e sulle tariffe che sono state moltiplicate appunto a carico dei cittadini. Quindi consiglio, invece di mettere su storie strane, stop biocidio, eccetera, cappelli politici vari, eccetera, eccetera, lavorare su queste cose, insomma, no? Ecco, a questo ci saremmo arrivati. Il progetto Coirs, a cui si lega tutta, che viene dai cittadini campani per piano alternativo, sono soldi che vengono dall'Europa e a cui si accodano i vari stop e biocidio, i vari disobbedienti, varie infilati dentro selle e dentro altre storie, che continuano a rompere i cosi, va bene, piuttosto che sviluppare una materialità del lavoro politico. Dico questo, forse poi successivamente se ne parlerà. Grazie, scusate. Ciao. Ecco, su questi aspetti, insomma, la telefonata li anticipati, ci saremmo arrivati nel momento in cui, insomma, andando con ordine, noi adesso facevamo appunto la puntualizzazione dello stato della perdurante strategia che si vuole seguire nella regione Lazio, che tu stavi stristrando e che ovviamente, insomma, grossolanamente non tiene conto di tutte queste osservazioni, cioè si va avanti come se non fosse successo niente, insomma, questa è un po' la sì. Cambiamenti ce ne sono, a parte la cancellazione di inceneritore d'Albano, che viene anche evidentemente da una mobilitazione in contrasto e tutta una serie di iniziative, e che probabilmente potrebbe essere sostituito da un ottavo invaso all'interno della discarica, molto più che probabilmente, insomma, è più che sicuro che, diciamo, che il settimo invaso, per questioni integrate. Allora, lo smaltimento dei rifiuti nella regione lo chiamano anche loro lo smaltimento integrato, è un sistema che si autocompensa in tutta la regione, e noi ne siamo accorti, è più di un anno che gran parte dei rifiuti di Roma vanno alla discarica di Roncigliano. Clini, Sottile, ai tempi del governo Monti, hanno dato il via a questa operazione. Dietro questa operazione probabilmente c'è un'altra truffa, perché non hanno fatto quello che dovevano fare rispetto alle linee guida di quello schifoso decreto che avevano fatto, e vabbè, vediamo che succederà. Però insomma è evidente come i vari territori, le nostre controparti le mettono in gioco, e c'è un interscambio, perché solo così riescono insomma a far funzionare, ma insomma la parola grossa, sto baraccone sgangherato che hanno messo in piedi. E quindi per tutti, per qualunque comitato, dovrebbe cominciare a diventare inevitabile cominciare per forza di cose ragionare a livello complessivo, almeno regionale, della vicenda rifiuti, perché la presenza di un impianto di MB, di una discarica, di un inceneritore, lo mette in stretta con le relazioni con tutti gli altri territori dove c'è presente una roba di questo genere, proprio per i giochetti che le nostre controparti portano avanti tutti i giorni, perché solo così riescono appunto a mandare avanti il baraccone. E tornando insomma al piano, a queste linee guida del 13 dicembre, ci dicevi prima bene, un'osservazione giustissima, vogliono mandare a regime l'inceneritore di Malagrotta, però l'inchiesta lancia grossissimi dubbi proprio su come si è arrivati anche a autorizzare e costruire quell'impianto, e quindi alla concessione del CIP 6, perché poi le imprese dicono bisogna farlo perché è l'unico che ha tutti i crismi, dove per crismi si intendono le compensazioni del CIP 6, certificati verdi eccetera, ma se questa roba è stata ottenuta fraudolentemente dovrebbe cadere tutta l'impalcatura. E dovrebbe cadere, da quello che insomma sembra a noi, dovrebbe cadere tutta l'impalcatura di tutte le autorizzazioni date per qualunque cosa sull'argomento, da tutte le ultime nuove discariche, ma probabilmente anche quelle vecchie, ma insomma non andiamo troppo indietro col tempo, agli impianti di DMB, a tutti i progetti e progettini che sono passati per le mani dei funzionari regionali che sono sotto inchiesta, perché insomma il meccanismo è stato più o meno lo stesso per tutto quanto. E quindi insomma la Regione Lazio, se si sentirà quando presenterà il vero piano dei rifiuti, di confermare anche l'impianto di Malagrotta, seppur con le problematicità che abbiamo raccontato, sono problemi dei Zingaretti se vuole continuare a battere questa strada, però insomma le aziende chiedono questo. Un altro aspetto che invece è molto importante, che poi magari si riallaccia anche con l'oggi, mi pare che è stata una nomina, ci dicevi, del nuovo... Sì, ne parlano oggi i giornali, tale Fortini, nominato presidente dell'AMA, che insomma nelle prime dichiarazioni ha detto differenziata e umiltà, questo è un po' il titolo riassuntivo, poi differenziata posso più o meno capirlo, umiltà non lo so che cosa vuol dire, ma... Diciamo obiettivi umili per la differenziata. Ah, obiettivi umili, ho capito, adesso comprendo. Questa che forse è l'interpretazione più giusta, perché... Il documento del 13 dicembre parla, le aziende chiedono una proroga del raggiungimento dell'obiettivo della raccolta differenziata al 65% per il 2020. Ah, ecco, questo mi sembra un importantissimo, dato insomma, importantissimo. Cioè si è andata avanti con proroghe di anno in anno, il 2012 doveva essere l'anno non si può più andare oltre, e siamo arrivati al 2013, e qui insomma invece... 14, già stiamo al 14. Già stiamo al 14, e qui invece c'è sei anni di comodo, cioè insomma una bella proroga di sei anni proprio per raggiungere questo obiettivo. La spiegazione è... molto furbesca che danno è che comunque sia c'è stato un leggero decremento della produzione dei rifiuti, il trend dovrebbe mantenersi così, quindi diciamo che non ci serve questa raccolta differenziata al 65%. Il 65% è la percentuale raggiunta la quale si dovrebbe innescare quel meccanismo virtuoso di cui insomma ogni tanto si parla, per il quale i cittadini dovrebbero cominciare a pagare di meno la tassa sui rifiuti, perché i materiali separati, differenziati, andrebbero a le varie filiere di recupero, riciclaggio, e verrebbero pagati come materiali, sì. E non si pagherebbe più per il conferimento, e quindi le casse dei comuni dovrebbero avere un introito, e questo introito dovrebbe, o comunque una minore spesa, insomma, no? E farebbe abbassare la bolletta dei rifiuti, e quindi insomma un bel regalino, sì, so, questa però, proroga. Perfetto, allora insomma traduciamo, la situazione è quella che vede la politica delle discariche dominare su tutto, no? Almeno qui nel Lazio, dove tra l'altro bisogna sottolinearlo, l'80%, il 70%, non lo so, butto là, lo fa Roma come produzione. Mi pare che complessivamente Roma fa il 60%, 60% di tutta la regione. Sono andato troppo oltre. Diciamo il 60% di tutta la regione, lo fa solo Roma. Se badiamo solo ai comuni del comprensorio più vicino, quindi provincia di Roma, e la percentuale ovviamente sale moltissimo, no? Sì, sono però, comprensori, insomma, più grandi. Diciamo che il peso di Roma in tutta la politica regionale dei rifiuti è ovviamente determinante. Allora però qui mi sembra che queste cose hanno vari aspetti. Il primo, che ve volevo anche poi sottoporre come, diciamo, sintesi un po' finale di questa lunga chiacchierata, è che qui c'è una sottovalutazione complessiva da parte, diciamo, dell'opinione pubblica, in particolare della cittadinanza romana, che non sembra preoccuparsi più di tanto di questo problema della spazzatura, al di là che poi una strada magari è più sporca di altre, ma questo riguarda poi diciamo le capacità dell'AMA, la sua organizzazione di pulire o non pulire le strade, ma dove va a finire questa spazzatura sembra che non freghi a nessuno. Beh, diciamo che insomma, quando si parla di Malagrotta, nella grande parte, poi grande parte, facendo sì, salvi ovviamente quella parte di popolazione che ne è direttamente interessata, che al solito insomma sì, cioè diciamo, come sensazione, quando si parla di Malagrotta pare che si parla non di un quartiere di Roma, ma di un altro, sì, un altro mondo. Dice beh, che ce frega, il Malagrotta mica è roba nostra, come se tutta la mondezza di tutti gli abitanti di Roma non finisse là. E quindi insomma questo mi sembra ancora un grosso problema da affrontare, che è forse amplificato o comunque non adeguatamente affrontato da un po' da quello che anche la telefonata tendeva a sottolineare, a parte insomma certe esacerbazioni, diciamo, di tono, no? Cioè la indifferenza o poca attenzione che ci hanno anche quelle componenti più politicizzate, di nuovo fatti salvi i comitati, poi pure là ci sarà da discutere, e voi li conoscete insomma sicuramente meglio di me, perché insomma riunioni, coordinamenti eccetera, ma diciamo una tematica di questo tipo non è per esempio presa in considerazione da tutte quelle strutture che esistono sul territorio, che si impegnano in tante altre attività, ma sul problema dei rifiuti sembra di vedere, di assistere a una sorta di delega a comitati come il vostro, o al comitato di Malagrotta a Roma, o a quello di Corcolle, a quello di Fiumicino, non lo so, insomma eccetera, mentre invece l'insieme poi di questo movimento romano, che pure vive di tanti altri aspetti, giustamente, per carità, su questo abbia poca sensibilità, insomma, no? Perché poi anche qui non voglio dire che l'unione fa la forza, perché sarebbe una sciocchezza, insomma, una banalità questo, però è chiaro che nel momento in cui interviene poi la magistratura, e siamo oggi a questo, la magistratura, se fa il suo dovere, poi non è detto ancora, ma se fa il suo dovere taglia, no? Come si è visto nel caso dell'Ilva di Taranto, non può che intervenire con certi provvedimenti. Allora, se qui per ipotesi, io credo difficile, ma per ipotesi la magistratura decide di sequestrare le discariche perché è oggetto del reato, qui la monnessa ci arriva al primo piano, cari cittadini e cittadini romani, insomma, qui che dobbiamo fare, cari compagni e compagni, insomma, è un po' questo, detto con semplicità, un po' anche una contraddizione al nostro interno, insomma, in qualche modo. Guarda, io l'idea che mi sono fatto io è che da una parte sicuramente c'è questa sensibilità, questa insomma, il fatto che nel Malagrotta e tutta la vicenda rifiuti è vissuta in maniera lontana rispetto da molti territori e quindi anche strutture di Roma. Dall'altra c'è anche l'aspetto che nel corso di questi anni diciamo che abbiamo sono stati attaccati, abbiamo acciaccato i piedi, abbiamo infastidito tantissimi personaggi politici e imprenditoriali. E purtroppo tantissimi personaggi politici che in maniera più o meno diretta sono legati a molte strutture, a molti ambienti romani, e insomma non ci viene, cioè per me è un dato scontato che poi magari non c'è un intervento su un intervento conflittuale su sull'argomento dello smaltimento dei rifiuti, perché mette in difficoltà, apre delle contraddizioni molto pesanti in componenti che stanno al consiglio comunale, che gestiscono sto schifo, che provano a gestire, che insomma non se la sentono di mettere in difficoltà referenti politici che invece stanno con le mani in pasta proprio su questa vicenda. E quindi questo secondo me è pure un altro aspetto che tiene lontano dall'affrontare tutto questo bailam di cui abbiamo raccontato. Quindi c'è un doppio canale: da una parte sicuramente la lontananza e anche diciamo è da poco che si riesce a affrontare in maniera organica tutta questa vicenda, e dall'altro il fatto che questa vicenda, proprio per le ripercussioni politiche, gli intrecci, le complicità all'interno dei partiti di tutti gli schieramenti, inibisce parecchio magari tante strutture anche solo ad affacciarsi in a esprimere un punto di vista esattamente critico, a esprimere un punto. Ultimissima cosa a tutti e due, beh, qui si parla di differenziata, allora ne parlano i padroni, perché ne parlano pure i padroni col il ciclo, le intenzioni che abbiamo visto, no? che si compendia e si complementa con la politica degli inceneritori, perché poi in Santa con tutti questi belli scenari che al 2020 si abbiano tempo, perché saremo tutti morti dal 2020 de puzza, eccetera eccetera. Però il punto di vista, viceversa, non voglio dire alternativo ma diverso, altro, sulla differenziata, va fatta, non va fatta, come, insomma, no, dove agire sulla produzione dei rifiuti, su, insomma, ecco un po' queste cose qua. Perché poi dice sì, vabbè, ma voi che proponete? La solita domanda, no? Non va bene niente, ma voi che proponete? Insomma, ecco, detto. Allora, ma noi che proponiamo? Beh, allora, diciamo, vai, Paola, innanzitutto che la differenziata è la prima parte della filiera del riciclo. Non basta differenziare il rifiuto, poi bisogna vedere cosa ci fai subito dopo. E quindi è indubbio che andrebbe sviluppata questa filiera, perché il rifiuto è una risorsa. Cioè, noi nella nostra società siamo abituati a considerarlo un problema, un residuo con quel sistema produttivo, e quindi una spesa che ricade sulla società, ma in realtà proprio noi, che siamo tra l'altro quel tipo di nazioni che non hanno più, insomma, grandi miniere o grandi risorse naturali, dovremmo fare del rifiuto una risorsa naturale, una risorsa, diciamo, umana, perché va reintrodotto nel sistema produttivo in qualche modo, e diventare una risorsa invece che una spesa. E posso aggiungere una cosa, cioè questo sicuramente è giustissimo, ma andare anche a monte, no? Sicuramente lo tenete presente. Sì, per esempio, c'è un'azienda che ha fatto una produzione di capsulette che vanno messe poi con l'acqua e producono detersivi, no? E queste sono abbastanza difficili da trovare. Io non è che voglio fare la beatificazione delle aziende del settore, però anche interventi legislativi su questo in Italia, insomma, sono molto carenti. Quindi andare proprio a monte della produzione di tutte queste scatole, scatolette eccetera, che poi sì, in teoria si potrebbero riciclare, ma allo stato attuale questo non avviene, e comunque sicuramente occorre un intervento su due fronti. Beh, guarda, cioè la parte del rifiuto è la parte finale, diciamo, la parte conclusiva del ciclo produttivo capitalistico, e sicuramente noi sappiamo bene che il monte totale di rifiuti prodotti, la gran parte, ma qui parliamo di quasi l'80%, non è il rifiuto solido urbano dei nostri cassonetti, ma sono le lavorazioni industriali, di cui francamente se sa poco e niente. Ultimamente un pentito di camorra se ne è uscito malo modo e insomma le dichiarazioni sono diventate pubbliche e si è scoperto che insomma tra Caserta e Napoli tutto il nord Italia, le aziende del nord Italia sversavano tranquillamente lì. In realtà non è proprio ultimamente se ne parla parecchio, però insomma so parecchi anni, sono una ventina d'anni che sto meccanismo insomma quindi il grande monte dei rifiuti prodotti è proprio dalla produzione industriale e quindi proprio la questione dei rifiuti entra proprio a pieno titolo sui processi industriali, i processi capitalistici, perché fa parte di tutto quel meccanismo. E noi produciamo cose che non servono e le produciamo in maniera dannosa e quindi poi ci ritroviamo nella situazione che ci stiamo vivendo. Gli interventi che insomma vengono proposti, che cosa facciamo, sono al massimo possono essere visti come delle toppe, secondo me toppe per arginare il disastro, per cercare di rallentare o comunque tutelare la popolazione da insomma conseguenze gravi immediate, ma non penso riuscirà sicuramente a risolvere il problema dei rifiuti con una produzione industriale di questo tipo, perché produciamo cose che non ci servono e le produciamo in maniera dannosa. E quindi bisognerebbe sicuramente, se si riuscisse a colpire quell'aspetto a monte ci ritroveremo con grandissimi vantaggi, però questo purtroppo ancora è lontano, insomma mi pare abbastanza lontano decidere cosa va prodotto e cosa non va prodotto e per quali motivi, però insomma magari ci si arriverà, perché la situazione sarà talmente disastrosa che toccherà per forza prendere atto e coscienza di quello che succede. Cioè la crisi ci farà da sanatoria, insomma sarà la crisi stessa a fare la sanatoria, insomma questo è uno scenario apocalittico, no? Quello che non te ci porta la ragione te ci porta a farlo, diciamo il devasto totale, insomma la devastazione, la catastrofe finale, insomma, per cui vabbè, qui ci sono stati, come sai, teorici fin dagli anni 70, c'era uno studio appunto sulla crescita zero, no? Che all'epoca andò molto in auge, in cui uno degli scenari per cui il mondo finiva, il mondo che conoscevamo, era quello per cui saremmo stati sommersi dai rifiuti, insomma ci sarebbe stata una crisi ambientale tale dovuta all'ammasso dei rifiuti, per cui poi da qui se ne deduceva che ci voleva una crescita zero, intesa come il PIL mondiale suddiviso per tutti quanti, e si stabiliva un PIL, una crescita fissa, il che in percentuale, il che significava che chi all'epoca, parliamo di 50 anni fa, quasi 40 anni fa, era morto di fame, sarebbe rimasto morti di fame, e quindi con un criterio di disuguaglianza all'origine, insomma al di là delle buone intenzioni, per cui poi non se n'è fatto più niente. E i risultati li vediamo, però in attesa che questo avvenga resta il fatto che poi ci abbiamo le contingenze del momento, che tanto per chiudere insomma sulle problematiche di cui volevamo parlare stamattina, c'è un altro aspetto che si è aperto relativamente recente, che è quello degli impianti a biomassa, che insomma si sta anche qui facendo insomma una carneficina non solo nel Lazio ma un po' dappertutto. L'Italia a macchia d'olio su questo, insomma, a macchia di leopardo, non a macchia d'olio, ci sono regioni più soggette, Toscana e Lazio sicuramente sono fra queste, altre meno soggette, dove si va a sviluppare una serie di tecnologie che per fini di produzione di energia elettrica miserrime, tra l'altro in un contesto in cui i consumi di energia elettrica sono drasticamente calati e ci abbiamo, ormai lo riconosce anche il governo, una sovrappotenza disponibile insomma enorme, per cui qual è il quadro sintetico della regione Lazio da sto punto di vista? Il quadro sintetico è il fatto che parecchie decine di impianti a biomassa o alimentati con frazione umida dei rifiuti o con biomasse di prossimità, e, insomma, quando si parla di prossimità, dietro questa cosa c'è, poi c'è una catastrofe che va a toccare. Sì, bisogna dirlo perché non si capisce, insomma, l'ascolto allora, medio non capisce che cos'è la biomassa da prossimità. Allora, sarebbe un impianto che brucia residui di potature, oli vegetali o quant'altro, e produce l'energia elettrica, pellet di varia natura prodotti in maniera più o meno e bruciano questi materiali, cioè una produzione di energia elettrica che viene pagata profumatamente grazie all'intervento del governo Monti. L'operazione analoga ai CIP 6, ai certificati verdi degli inceneritori, tutto dietro questa fantastica facciata del bio, green economy e quant'altro. Del piccolo anche, perché comunque sono soprattutto gli impianti sotto i 2 megawattora, mi sembra. Uno. Che vengono più la cui produzione viene più facilitata. Però insomma la legislazione è in continuo mutamento. Tecnologia green, spacciata per nuova, cioè roba che è vecchia come discariche e inceneritori, ci teniamo a precisarlo perché insomma non si può parlare di roba nuova, e che dovrebbero insomma da una parte assicurare lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti e dall'altra produrre energia elettrica da queste biomasse di prossimità. E quindi qui si sposerebbe col famoso concetto puro della differenziata, in cui le biomasse organiche le utilizzi a questi fini qua. Questo sarebbe proprio E qui insomma la truffa per noi è evidente, insomma. Le biomasse digestate per produrre energia elettrica sono un rifiuto speciale pericolosissimo e non compost di qualità come qualche scemo alla Regione Lazio continua a ripetere, e dall'altra le biomasse di prossimità sono una catastrofe ambientale globale, perché le biomasse di prossimità, facendo i conti delle capacità, i territori non ce l'hanno e quindi dovranno farle venire da altre parti. Purtroppo le parti da dove arriveranno noi già sappiamo quali sono l'Africa, sono il Sud America, l'Ucraina, pellet radioattivo, esatto. Insomma ha fatto scalpore, popolazioni indigene massacrate per distruggere la foresta e coltivare l'olio di palma, l'olio di palma che dovrebbe alimentare le nostre fantastiche centrali a biomassa. Questo è il meccanismo ancora peggiore di tutto il resto, cioè un imperialismo ecologico, io non so come chiamarlo, però insomma di questo si parla. L'olio di palma le piantagioni sta devastando il Sud America, l'Africa, per alimentare queste centraline schifose. E quindi insomma la biomassa di prossimità è una barzelletta, che però sta insomma una devastazione globale. Spieghiamo l'artificio tecnico perché ogni centralina che è prevista funzionare a biomassa magari locale, però è previsto pure che in deroga la biomassa locale, se non gliela fai a raggiunge il numero di ore di funzionamento l'anno, può integrare con altri combustibili dello stesso tipo, ma a volte anche combustibili tradizionali che provengono da altri posti. Quindi insomma abbiamo inventato il modo perpetuo per capitale, insomma, perché poi tutto questo rientra in dinamiche di questo tipo qua, insomma. Insomma io ho messo l'accenno perché quanti sono grosso modo i progetti qui nella Regione Lazio? Nella Regione Lazio ce ne sono quelli presentati l'anno scorso erano 150, ecco. Quelli in fase di autorizzazione sono una decina per l'umido, per la frazione umida, e sempre una dozzina per gli altri tipi di combustibili bio, come vengono chiamati, però a fronte di 250 imprenditori privati che hanno fatto richiesta di impiantare una centralina di questo genere sul proprio territorio. Aggravante mi sembra che molto spesso questi progetti in qualche modo riescono a sottrarsi alla valutazione di impatto ambientale. Purtroppo gli impianti piccoli che hanno godo di una legislazione semplificata, perché insomma la burocrazia non piace per niente, e quindi sì, non passano in regione, hanno un iter molto breve soltanto con la controparte provinciale, che poi nel frattempo non si sa bene che fine ha fatto, quindi. E non è comunque assolutamente all'altezza di contrastare, indagare insomma i progetti che vengono presentati. Esattamente, e quindi c'è stato un grosso fiorire di questi progetti su tutti i territori, tutti molto piccoli. Il più grande in assoluto è quello per il bacino della città di Roma, che non si sa bene dove ricadrà. Qualche ipotesi la possiamo fare: a Malagrotta, molto semplicemente, insomma, un nome a caso, un nome a caso nella Valle Galeria, perché insomma lì ci sono le strutture per farlo, lo sanno tutti. Convertire l'ex raffineria, già i silos sono pronti, insomma mi pare un'operazione molto semplice da questo punto di vista, e quindi niente, andare avanti. E qui torna l'ambientalismo peloso, quello delle ambiente, dei partiti della sinistra ambientalista, che sono stati e sono i principali sponsor di questo tipo di tecnologia. Insomma, i proventi, i profitti ci sono garantiti dalle nostre tasche, grazie al governo Monti che incentiva questo tipo di produzione di energia elettrica. E come per la raccolta differenziata finalizzata alla produzione di CDR, insomma, c'è un gran, si dà un gran da fare nella sensibilizzazione delle persone, delle popolazioni, per fare il compost, per tenere l'umido da una parte, perché poi gli servirà per sto tipo di operazioni. E insomma, i progetti sono veramente tanti e ne spuntano quelli un po' ovunque. Fortunatamente qualcuno, i comitati sono riusciti anche a farlo rimangiare. Il caso di Guidonia è emblematico, perché a Guidonia, tra Guidonia e Fontenuova, due impianti proposti e autorizzati dalla provincia da un imprenditore locale, un mese di mobilitazioni sotto casa dell'imprenditore, quello è andato in provincia, ha detto no, non lo faccio più. E ha cambiato pure casa. E ha cambiato. Quindi una vittoria abbastanza significativa da questo punto di vista. Impianto autorizzato, ma il proponente si ritira dal business, e quindi insomma una soddisfazione almeno insomma c'è stata. Purtroppo però insomma sicuramente sto piano dei rifiuti darà il là a sto tipo di operazione. E poi io volevo ricordare un'altra prospettiva che si ha sulla futura gestione dei rifiuti, anche questa appoggiata appunto dalle grandi associazioni, ossia il direzionamento dei rifiuti nei cementifici. Quindi la possibilità che avranno queste strutture di bruciare al loro interno rifiuti, ricevendone tra l'altro automaticamente i proventi, insomma, delle tariffe. Che tra l'altro insomma i cementifici già sono una struttura abbastanza inquinante, perché insomma il cementificio di per sé è una cosa, e c'è stato anche, per quanto riguarda i grossi impianti di produzione, anche l'apertura alle centrali elettriche. Insomma, la prima è stata a Brindisi, in cui alcuni anni fa già gli era stato consentito la possibilità, poi non l'hanno mai fatto, ma insomma venne fuori che potevano bruciare rifiuti anche dentro la centrale elettrica di Brindisi. Poi, la grossa centrale. Sui cementifici purtroppo un'altra nota veramente dolente è il fatto che si richiede anche il fatto di inserire le ceneri di questa operazione nell'impasto del cemento, con delle conseguenze che già sono state viste sulla stabilità dell'edificio stesso, perché poi questo cemento di scarsa qualità con miste queste ceneri reagisce con altri prodotti dell'edilizia e mette insomma in pericolo la staticità degli edifici, esatto, costruiti. Tra l'altro sottolineo solo questo, che questo è un fenomeno notissimo, perché insomma noi siamo importatori di queste tecnologie in ritardo e non impariamo mai dagli errori che gli altri hanno già sperimentato e verificato, perché insomma queste cose negli Stati Uniti e in altri paesi sono state fatte una trentina d'anni fa, e si sono accorte proprio delle controindicazioni che tu elencavi, cioè questa roba non è inerte, reagisce all'interno e quindi compromette la solidità della malta cementizia che viene fuori da questi cosi, e quindi non è adatta alle costruzioni, per cui per esempio altri paesi, laddove mantengono queste tecnologie, le finalizzano soltanto a destinazioni che non hanno funzioni portanti, non hanno carichi, quindi non per abitazioni, non per costruzioni dei ponti eccetera. Al massimo ci fai quella che è la massicciata del manto stradale, la metti sotto come riempitivo eccetera eccetera, quindi con una funzione molto degradata. Invece qui noi queste cose insomma magari ci facciamo le case popolari, insomma, no? O le scuole. O le scuole, certo. Bene, io credo che insomma è stata lunga e interessante questo approfondimento, insomma, non so se volete aggiungere in finale qualcosa. Allora, io magari appuntamenti, qualcosa. Sì, allora, prima un'indicazione per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. E da qualche tempo, non so bene, su internet e su uno dei siti della Regione Lazio è uscito uno studio stranamente molto fatto bene, interessante, www.eraslazio.it, dove potete trovare una mappatura e delle valutazioni igienico-sanitarie e ambientali degli impianti nocivi della Regione Lazio, con dei dati assolutamente allarmanti e spiegati abbastanza bene. Vi potete fare un'idea magari del territorio dove vivete, dove andrete a vivere, dove avete vissuto. www.eraslazio.it, insomma, per chi è interessato dategli un'occhiata e vi potete rendere conto della situazione di dove vivete. Insomma, è stato fatto abbastanza bene, ci sono i dati di mortalità, delle malattie collegate agli impianti industriali sul territorio, e può essere uno strumento, insomma, per farsi un'idea della situazione che stiamo vivendo. Per gli appuntamenti, sicuramente nelle prossime settimane ci saranno iniziative in tutta la regione proprio sulla questione dei rifiuti nelle discariche storiche, così per dire, ad Albano, a Malagrotta, a Guidonia, proprio perché i problemi invece, insomma, sono ancora tutti sul tappeto. Date precise io, insomma, non le do perché non sono ancora confermate, però, insomma, dai microfoni della radio sicuramente usciranno. L'invito è sempre quello di massima, insomma, di attenzione, il dibattito su questi argomenti. Questo portale della regione, eraslazio.it, può dare una mano a comprendere in che casino siamo finiti, e quindi niente, per tutto qua. Sì, io aggiungerei, ricordando la trasmissione che va in onda ogni lunedì, Impatto contro le nocività, dalle frequenze di Radio Onda Rossa alle 17:15, quindi sicuramente lì troverete aggiornamenti su tutta la situazione, non solo della nostra regione ma anche di tutte le situazioni in Italia, dove, insomma, vari comitati si battono sulle stesse tematiche. Allora, insomma, ringraziamo per lo spazio, perché, insomma, poi è stato pure abbastanza comodo, perché magari durante Impatto i tempi sono stretti, le cose sono tante, invece qui siamo stati insomma, una situazione un po' più agevole. Insomma, ripeteremo anche altre volte, magari con altri ospiti o altre situazioni nuove che ci si vengono a verificare. Buona giornata a tutti e a tutte. E va bene, allora chiudiamo quindi.